GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta, super anticipo del giovedì per lasciare sabato lo stadio olimpico a Italia-Argentina di rugby. Juventus e Genoa ci arrivavano come le due squadre più in forma della Serie A insieme al Napoli e la partita lo ha confermato al di là della larga vittoria bianconera. 4-1 con Grieger ad aprire le marcature dopo 6 minuti, Amauri a raddoppiare al 26esimo nel miglior momento del Genoa. Il tabellino si arrotonda nel finale con i gol di Iaquinta appena entrato al 40esimo, il rigore trasformato da Milito al 43esimo e l'autorete di Papastathopoulos al secondo minuto di recupero. Per la Juventus sono così 7 vittorie consecutive tra campionato e Coppa e, almeno fino a domenica, primati in classifica a quota 24 in coppia con l'Inter. Sentiamo Mauri che pensa già a Palermo-Inter. Sono contento per quello che sto facendo, quello che sta facendo la squadra. L'importante è non mollare. Se la Juve gioca così può mettere in difficoltà qualunque squadra e battere qualunque squadra. Speriamo che il Palermo domenica ci faccia questo bel regalo e niente, perché è bello stare lì su. Starò lì a tifare ai miei ex compagni. Sul fronte Genoa, Gasperini recrimina solo sull'approccio dei suoi alla gara, ma i rossoblù hanno giocato a tratti davvero bene, sempre sull'onda dell'incontenibile Diego Milito. Sì, poi Milito a Genoa insomma un idolo, poi dopo è un giocatore, si è visto anche questa sera, di importanza notevole. Ma noi purtroppo abbiamo avuto un inizio non all'altezza, è emblematico il primo gol che abbiamo subito, e eravamo piuttosto fragili, e magari non al meglio, e la Juventus è partita forte, ne ho approfittato, poi la Juventus è una grande squadra. Poi devo dire, sul 2-0 abbiamo fatto anche una discreta partita, abbiamo avuto qualche opportunità per riaprirla, e poi nel finale è un po' dilagata la partita, magari con un po' di stanchezza. Paradossalmente abbiamo tenuto una buona gara, ma dal 2-0 in poi. Grande paura ieri per Daniele De Rossi e immaginiamo per tutti i romanisti. Una brutta caduta, il timore di una frattura al polso sinistro e tanto dolore. Ma gli accertamenti hanno escluso problemi gravi e De Rossi sarà del derby. Sul fronte Lazio ieri ha parlato Tommaso Rocchi. Io penso che sarà una partita difficilissima, come lo è sempre stata. Non dovremo cambiare il modo di preparare la partita, perché dobbiamo pensare a noi stessi. La prepareremo e la stiamo preparando bene, vedendo anche come si muove la Roma in quest'ultimo periodo. Non ho mai pensato di dimettermi, ha assicurato Diego Maradona ai microfoni di una TV argentina. L'ex fuoriclasse del Napoli ha così voluto smentire le voci circolate dopo i suoi duri contrasti con il presidente della Federcalcio argentina, Julio Grondona. Infine abbiamo il basket, giovedì sulla strada, con grandissimi rimpianti per le nostre di Eurolega. Per il Montepaschi Siena arriva la prima sconfitta stagionale sul campo di una grande come il Panathinaikos e con successo greco 81-76 che matura solo nell'ultimo minuto. Un canestro di Bullock a 3 secondi dalla sirena ruba invece a Milano il primo euro successo stagionale. Vince il Real Madrid 70-69. Poteva essere giovedì di festa e invece ci portiamo a casa solo la vittoria di Avellino a Le Mans 78-73. È tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.